L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, lo spazio settimanale in collaborazione con il network Euronet che dedichiamo all'Europa attraverso le storie, attraverso le persone per raccontarvi l'attualità e non solo. L'Altra Europa @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica e vi ricordo che tutte le puntate sono riascoltabili in podcast. L'attualità questa settimana, queste settimane, ha messo in primo piano la Russia, quello che sta succedendo in Russia per il dramma degli incendi. Vogliamo capire quella che è la situazione reale, lo facciamo con l'inviato da Mosca per il Sole 24 Ore, Antonella Scott. Ciao Antonella, buon sabato. Buongiorno. Ciao Antonella, tu sei lì a Mosca, hai la mascherina? Purtroppo sì, anche se è abbastanza insopportabile, perché con il caldo essendo già la temperatura molto alta comunque di base, con questa cosa sulla faccia praticamente uno si rigetta sul viso il proprio fiato ancora più bollente, e quindi nei giorni più drammatici dello smog io l'ho tolta dopo 10 minuti, non ne potevo più, e anche la gente, vedevo che la grande maggioranza delle persone non la porta in realtà, anche se tra l'altro poi ecco ci sono anche medici che dicono che di fatto non serve a niente, quindi insomma tutti ce l'hanno, forse più per scaramanzia. Antonella, ahimè tutte le volte che succede qualcosa in Russia le notizie sono sempre tante, sono confuse, a volte sono anche contraddittorie. E cosa stanno vivendo i cittadini in questo momento a Mosca, e non solo a Mosca, perché gli incendi sono sviluppati per centinaia e centinaia di chilometri? Sì, la situazione più drammatica è quella dei villaggi, che si sono visti avvicinare sempre di più gli incendi nelle foreste, e si sono sentiti praticamente impotenti, senza servizi adeguati, i vigili del fuoco. Per quanto riguarda Mosca, ci sono stati nel corso della settimana un po' di momenti di sollievo, abbiamo avuto dei giorni in cui si è un po' tirato il fiato letteralmente, man mano che ci si avvicinava il weekend però la situazione è tornata a peggiorare, il caldo è ancora terribile e malgrado qualche acquazzone notturno le piogge vere non sono arrivate e lo smog è tornato a farsi sentire, lo si capisce perché anche se a volte l'aria sembra quasi più limpida rispetto appunto ai giorni tremendi che sono stati intorno insomma al 6, 7, 8 agosto, adesso l'aria sembra, a volte ti dà l'impressione di essere più pulita, però dopo un po' uno apre la finestra, dopo un po' si sente subito la gola bruciare. È chiaro che con le foreste, soprattutto le torbiere, che sono quelle che si fa più fatica a spegnere, che continuano comunque, anche se diminuendo, ma comunque continuano a bruciare, è chiaro che il problema non è ancora risolto. Soltanto dei veri e propri temporali lunghi riusciranno a risolvere il problema, per non parlare poi del raccolto, che è tutto un altro problema a parte. Pare che un quarto del raccolto del grano dell'intero paese sia andato bruciato, e non so se sono dati che anche tu hai, e la popolazione è toccata da questo fatto, è spaventata, o è solo un qualcosa che riguarda l'economia, i ministri, i governanti? No, questa è davvero la cosa di cui si parla di più e che la gente sente di più. Le autorità da una parte si fanno vedere molto attive, sono molto attente, visto che poi la televisione è completamente sotto il loro controllo, quindi ogni sera al telegiornale si vedono per ore Medvedev e Putin che parlano di questi problemi, che assicurano che ci sarà una lotta feroce alla speculazione. Questo è il vero rischio, la vera scintilla che potrebbe far scatenare la protesta della gente, vedere la gente che già ha sopportato tutto questo e che poi si vede anche aumentare i prezzi nei prodotti di cui nessuno può fare a meno. Qui sono prodotti molto sensibili perché la maggior parte delle famiglie sono famiglie a basso reddito, quindi anche variazioni di pochi centesimi sul prezzo del pane per loro si sentono. E quindi è il grosso, diciamo, la grossa paura per le autorità, che che su questo si scateni la protesta. Per il resto, in realtà, sembra quasi che, come sempre è stato nella storia, i russi hanno sempre sopportato tanto, e quest'estate, che per i moscoviti, soprattutto i moscoviti anziani, è stata un'estate veramente di inferno, sembra quasi che è una delle tante prove a cui sono chiamati, e in realtà si traduce quasi poi in un'apatia, per cui poi di fatto la gente subisce e non protesta. In un tuo pezzo di alcuni giorni fa sul Sole 24 Ore hai previsto che, insomma, presto vedremo Putin sui banchi del mercato per far abbassare il prezzo del pane. Ti immagini già questa scena, vero, davanti alle telecamere del telegiornale? Sì, mi ricordo, appunto, credo fosse più o meno questo periodo, comunque mi ricordo l'anno scorso, lui improvvisamente, proprio perché era una riunione del governo, stavano discutendo appunto il modo per calmierare i prezzi, e lui improvvisamente scese giù al supermercato più vicino e si fece ovviamente riprendere, quindi poi rilanciato nei telegiornali di tutto il paese, mentre rimproverava i gestori del supermercato perché secondo lui i prezzi delle salsicce erano troppo alte, e naturalmente il giorno dopo il supermercato, che è una catena molto diffusa qui a Mosca, abbassò i prezzi, fece anche, mi sembra, delle promozioni speciali. Ecco, sicuramente episodi del genere si ripeteranno, perché è proprio l'immagine su cui Putin punta per dimostrarsi attento ai problemi reali del paese. E anche il sindaco di Mosca è un po' nell'occhio del ciclone, perché era in vacanza, non so, è tornato in queste ore? Era in vacanza ed è tornato dunque lunedì scorso, però quando ormai appunto la città Mosca aveva vissuto i suoi giorni più terribili, e quindi è su di lui che si è riversata la rabbia soprattutto dell'opposizione, perché insomma sono cose che, avendo le previsioni in mano, sarebbe stato molto facile, dicono i vari raggruppamenti dell'opposizione, sarebbe stato molto facile organizzare non so, dei centri di accoglienza nei teatri, nelle palestre, sì, nei centri sportivi, nei cinema, in modo da dare a tutti la possibilità di almeno per qualche ora riposarsi, respirare un po' di fresco, perché la maggior parte delle case non ha il condizionatore, e quindi immaginate, appunto, di fatto poi qui è da metà giugno che fa un caldo tremendo, a parte lo smog, sopra i 30 gradi ci siamo da giugno, quindi la gente ha sopportato tantissimo, per non parlare poi di quello che, appunto, mentre prima dicevamo si parla tanto della questione grano, però non si dice nulla, veramente nulla, sulla questione, sul vero rischio per la salute della gente. Tutto questo concentrato di monossido di carbonio e di tutte le sostanze che sono state sprigionate dagli incendi, per la salute dei cittadini, questo è il vero rischio, certo, la vera paura. Mentre all'estero c'è tanta paura per quelli che sono gli eventuali rischi legati alle centrali nucleari o ai siti radioattivi, cosa che forse lì è meno sentita perché è meno pubblicizzata dagli organi di informazione. Sì, di tutto questo non si parla. C'è un po' la sensazione, parlando con la gente, che si comunque metta più l'accento, cioè che quando si parla di nucleare sia un modo in realtà per... perché ecco, qui quello di cui si parla non è tanto Chernobyl, ma il fatto che ci siano degli incendi che si sono avvicinati a vari centri di ricerca nucleare, centri di un complesso dove viene lavorato l'uranio già spento utilizzato nelle centrali, e questo, di questo qualcosa si dice. Che la mortalità sia raddoppiata e che ci siano stati in luglio, dicono, 5.000 morti in più rispetto all'anno scorso, questo chiaro che è dovuto al caldo. Lo scandalo è che non si dice, che si cerca di nascondere le statistiche, e che sempre più medici stanno venendo fuori a dire che gli è stato proibito di diagnosticare cause di morte che hanno a che fare con il calore. Direi che questa è la vera vergogna di questi giorni. Antonella, ti lasciamo al tuo lavoro, al tuo difficile lavoro, insomma, in questa situazione. Grazie davvero per essere stata con noi e in bocca al lupo per i prossimi giorni. Grazie. Arriviamo dalla Russia con l'altra Europa, dove abbiamo sentito non solo degli incendi ma anche di queste altissime temperature, ma il meteo è l'attualità, un po' perché è il weekend di Ferragosto, un po' perché il meteo in questi giorni in Europa si è fatto sentire in maniera bizzarra e quindi continuiamo a parlarne. Das schlägt auf Gemüt und eben auf die Temperaturen. Seront inférieures aux moyennes de saison. Elles varieront demain matin de 11 à 22 degrés, le maximum à Nice. Dans l'après-midi, on peut espérer tout de même 23 sur Paris ou sur Strasbourg. Minimum 20 degrés en bordure de la Manche, maximum 30 degrés. Jueves que llega con lluvias en el norte de la península y también las temperaturas serán noticia ya que empiezan a bajar por el norte. De momento, hoy seguiremos en todo el valle del Guadalquivir con temperaturas que subirán hasta los 38 grados. We keep it pretty unsettled across London and Paris. Un giro di previsioni meteo per l'Europa, ma continuiamo a viaggiare. Lo facciamo con un libro molto bello, edito da Einaudi, si intitola Viaggi nel tempo che fa, piccola geografia meteorologico-letteraria, scritto da Luca Mercalli, che è qua con noi. Ciao Luca, buon sabato. Ciao Federico, anche a te. Ciao. Insomma, non si può non parlare di tempo senza convocarti, senza invitarti, anche perché il tempo ci sta dando tanti spunti in questi giorni e il tuo libro dedica proprio una parte sul tempo in Europa, perché l'hai diviso il tempo nel mondo, il tempo in Europa e il tempo in Italia. Io ho fatto questa scelta ovviamente per le zone dove avevo più materiale, ci sono più capitoli come il tempo italiano e poi via via l'Europa e il mondo c'è una scelta di luoghi particolari con climi di cui parlare. E poi una sorta di guida turistica anche, cioè il turista dovrebbe avere con sé questo libro perché dà le giuste dritte per capirci qualcosa, insomma. Forse il libro da leggere prima di partire dà un po' gli spunti per poi andare a cercare le zone con il clima che uno ama di più. E poi anche siamo nell'era di internet, quindi è anche una sorta di dizionario dei siti internet dei grandi servizi meteorologici del mondo. Ecco Luca, puoi aiutarci a capire cosa sta succedendo? Parlavamo poco fa, eravamo in diretta da Mosca dove ci sono 37, 38, 39 gradi, temperature assolutamente atipiche o no? Veramente, è successo qualcosa di incredibile, anche se non inatteso, nel senso che da anni ormai gli scenari sui cambiamenti climatici ci dicono che prima o poi nell'emisfero nord le ondate di calore si sarebbero fatte più frequenti, era solo questione di tempo e di attesa. Nell'Europa occidentale, Italia inclusa, era capitato nella famosissima e triste estate 2003 che fece 35.000 vittime soprattutto tra Francia, Germania, Svizzera e adesso tocca la Russia dove veramente il mese di luglio è stato il più caldo degli annali e non stiamo parlando di pochi anni di rilevamento perché la Russia a Mosca l'osservatorio meteorologico ha quasi 200 anni di dati e non si hanno notizie di temperature così elevate e per così a lungo tempo in tempi precedenti. 39 gradi è il valore massimo che è stato registrato a Mosca, più volte il valore precedente era di 37 gradi, quindi assistiamo veramente a un fenomeno meteorologico eccezionale. E abbiamo visto anche nel centro Europa in questi giorni fenomeni climatici, insomma hanno fatto anche tantissimi danni, ci sono stati morti, quindi alluvioni, anche questo era prevedibile, anche questo è quello che ci aspetta? Cambiando però completamente l'approccio, in questo caso è la frequenza di fenomeni un tempo ritenuti eccezionali che adesso stanno cominciando a diventare più frequenti. Infatti le alluvioni in centro Europa, se vi ricordate, le abbiamo già viste sui telegiornali dell'estate del 2002 e poi dell'estate del 2005 col Danubio in piena, Praga allagata e così via. E allora ecco che anche questo episodio va a fare il terzo caso in un decennio. Viaggi nel tempo che fa, è una, no, non vuole essere proprio una guida pratica ai climi del mondo, anche perché insomma non sarebbe una cosa forse fattibile, forse sarebbe troppo simile a un libro scolastico, no? È qualcosa di più questo viaggio che tu proponi, anche di questo strano rapporto che c'è tra meteorologia e turismo, una sorta di odio e amore, vero? Una meteorologia e turismo che fino a un po' di anni fa veramente faceva i conti con dati molto imprecisi, adesso grazie al miglioramento della qualità delle previsioni e a internet che ci permette di scambiare dati con rapidità e di andare a vedere proprio in casa di ciascuno che cosa sta succedendo praticamente in tempo reale, allora direi che è venuto il momento di condensare il sapere climatico mondiale e facendolo in modo anche leggero, perché c'è dentro della letteratura insieme ai numeri. Quindi direi un modo, io faccio colui che è fortunato e raccoglie il frutto migliore di tanti secoli di ricerca. Noi parliamo tanto di Europa e di Unione Europea. C'è un'Unione Europea anche dal punto di vista climatico, o ogni nazione, ogni Stato ha una sua identità? Ma direi che tutti gli Stati mantengono la loro identità, ma hanno fatto qualcosa di più. C'è un'Unione Mondiale del tempo. Infatti l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ormai opera in modo consolidato dal 1951 come agenzia delle Nazioni Unite, peraltro arrivando da un'organizzazione precedente che era addirittura di matrice ottocentesca. Quindi direi che l'unità sul piano del clima e della meteorologia è già stata fatta molti anni prima di quella politica. E poi nel tuo libro vai anche a ribaltare alcune leggende metropolitane, alcune credenze. Per esempio, inizio il capitolo della Norvegia: il clima norvegese, pur ricadendo nella zona del Grande Nord, è tutto sommato dolce. Ci stai dicendo che in Norvegia si sta bene? Il clima norvegese è un clima piuttosto umido e piovoso e prende gli ultimi strascichi della corrente del Golfo, e quindi, a dispetto della sua latitudine, in Norvegia non fa poi così freddo, salvo nelle aree interne. Direi che è più la Finlandia il paese gelido. La Norvegia, al di là della zona di Capo Nord, del Troms, che sono gelidi solo nei mesi ovviamente invernali, ma tutta la parte meridionale, il Trondheim e ovviamente Oslo, sono climi umidi, forse un po' grigi in certi periodi dell'anno, ma non così gelidi. Mentre Londra, confermi anche tu, è grigia. Londra, sì, grigio Londra, lo confermo. Anche se come quantità la pioggia che cade a Londra è poca, equivale a una località di pianura padana. A Londra piove quanto piove per esempio a Ferrara. Ma la differenza sta nel fatto che a Ferrara piove in un'ottantina di giorni all'anno, a Londra piove quasi tutti i giorni. Poco, ma distribuito in pioviggini che possono praticamente un giorno sì e uno no. Altre due tappe, la Croazia, perché atmosfere agitate? Il vento, la bora che arriva da noi è passata prima, possiamo dire, per la Croazia e li ha spazzati per bene. E infatti è il luogo dove abbiamo alcune delle velocità del vento più elevate d'Europa, 200 km all'ora, ma in località di bassa quota, non sulla vetta del Monte Bianco. Mentre Berlino battezza alte e basse pressioni. Berlino è sempre questa città contraddittoria anche nel clima? Sì, perché Berlino ha deciso una decina di anni fa, forse anche qualche anno prima, di dare il nome alle alte e basse pressioni che spesso vediamo indicate sulle carte meteorologiche, un po' come gli americani dagli anni 60 facevano con gli uragani. E quindi l'Università di Berlino, la Facoltà di Meteorologia, l'Istituto di Meteorologia, ha deciso di mettere i nomi degli studenti alle alte e basse pressioni. E adesso addirittura vende lo spazio a chi vuole dedicare l'alta o la bassa pressione alla propria fidanzata, agli amici o ai genitori. Quindi avremo anticicloni maschili e basse pressioni femminili a seconda di chi ha voluto fare una dedica al tempo che c'è in quel momento sull'Europa. Chiuderei con l'ultimo capitolo, il cui titolo è tutto un programma: Islanda, vento, ghiaccio e lava. Hai detto tutto? Ho detto tutto e ho scritto prima dell'eruzione, però è proprio così: un paese dove il ghiaccio sta sopra i vulcani e ogni tanto i vulcani che decidono di risvegliarsi devono prima bucare lo strato di ghiaccio. Ecco quindi che i fenomeni che si sviluppano sono grandiosi: prima il ghiaccio deve fondere e quindi enormi alluvioni, ma fortunatamente in zone che sono veramente poco abitate, quindi i danni sono tutto sommato molto modesti comparati con l'enormità di questi fenomeni naturali. Ce ne siamo però tutti accorti ad aprile, quando con l'eruzione e la cenere, i viaggi sono stati per un po' impossibili con gli aeroporti bloccati. Invece è stato possibile questo viaggio nel meteo insieme a Luca Mercalli, autore del bel libro Viaggi nel tempo che fa, edito da Einaudi. Grazie Luca, buon weekend, buon Ferragosto. Buon viaggio a tutti. Ciao. Europost-it. dal gelo dell'Antartide al caldo della Sardegna, arrivando fino ai deserti. Oggi per testare questi climi basta recarsi in un museo di Bremerhaven in Germania. All'interno di un edificio futuribile si potranno infatti provare sulla propria pelle tutte le situazioni ambientali del pianeta. Il museo, il Klimhaus 8 gradi est di Bremerhaven, è un gioiello tecnologico racchiuso all'interno di una delle realizzazioni più originali d'Europa. Il viaggio attraverso i climi ha inizio proprio dal clima cittadino, dove si trovano i visitatori che partiranno per un lungo viaggio a spasso per il mondo e per l'Europa. Dai ghiacciai svizzeri alle coste della Sardegna, passando per la fredda Göteborg, alla umida Londra, per poi fare ritorno sull'isola tedesca di Alling-Langnes, al confine con la Danimarca. Marca. L'altra Europa. Questi sono i nostri europostiti, indicazioni, dritte, coordinate legate a quello che succede in Europa. Anche voi potete segnalarci nel caso, che ne so, abbiate visitato qualche museo, qualche mostra in giro per il continente. l'altraeuropa@radio24.it è il nostro indirizzo, la nostra mail. Fare una nuova cultura europea, quante volte abbiamo detto che anche questo è un obiettivo del nostro programma, e per farlo a volte viaggiare aiuta sicuramente, e ci sono viaggi che ti permettono, ci sono iniziative che ti permettono di andare a respirare, andare a vivere l'Europa per davvero, e magari farlo nel periodo scolastico. C'è per esempio un'associazione che è Intercultura, www.intercultura.com, che organizza proprio scambi e non solo nel periodo delle scuole superiori. È strano parlare di scuola oggi che è il 14 d'agosto, ma c'è qualcuno che lunedì inizierà la scuola, e questa scuola sarà in Norvegia. Diamo il benvenuto a Francesca, che partirà proprio in questi giorni per farsi 11 mesi in Norvegia. Ciao Francesca! Buongiorno. Buon sabato. Hai fatto la valigia? Quasi, insomma. Visto che ho ancora 3 giorni, sono ancora in alto mare, devo dire. Stavamo parlando di meteorologia in Europa. Immagino sia stata la prima cosa che sei andata a vedere quando hai scoperto, o quando hai scelto di andare in Norvegia. Quando ho scelto magari no, quando l'ho scoperto di sicuro, più che altro per sapere quanto in alto era e quanto freddo avrebbe fatto quest'inverno. Allora Francesca, perché si sceglie di andare a studiare un anno, come nel tuo caso, all'estero? Tu quanti anni hai? 17, 18? 17. 17. Perché hai scelto di partire, di fare questa esperienza? Ma perché volevo cambiare aria, volevo vedere un posto nuovo, conoscere altra gente, e tutto sommato non è che perda molto, perché la quarta liceo è un anno come altri della scuola superiore, e invece così avrò l'opportunità di farlo in un posto completamente diverso da quello che è casa mia. E la Norvegia l'hai scelta tu? Sì, l'ho scelta io. Devo dire che non ho nessuna regione particolare per averla scelta, però mi affascinano le terre del nord. E così, quando mi hanno detto di mettere 3 scelte per avere la borsa di studio, io ho messo Norvegia, Svezia e Danimarca. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, l'Europa raccontata, scoperta attraverso storie e persone. Con noi è Francesca, 17enne della Val di Susa, in procinto di partire per la Norvegia, dove passerà 11 mesi. E Francesca, hai detto che la Norvegia l'hai scelta un po' per caso, però ci si prepara in un modo particolare nell'andare in una nazione dove, per esempio, tu la lingua non l'avevi mai studiata, immagino. No, assolutamente no, non mi era mai passato per la testa di studiare norvegese, però ho incontrato assolutamente per caso anche questa volta una ragazza norvegese che era fidanzata con un ragazzo che viveva qua da queste parti, e che si è prestata a farmi da insegnante attraverso i primi rudimenti del norvegese. Ecco, e com'è stato il primo approccio con questa nuova lingua? Ma le parole sono molto diverse dall'italiano e dalle lingue latine in generale, però la grammatica è un misto fra l'inglese e l'italiano, quindi non è nemmeno troppo difficile. Tu vivrai in una famiglia, giusto? Sì, vivrò in una famiglia composta da 2 genitori e 4 sorelle, di cui però 3 studiano all'università e quindi non vivono in casa. E sarai ad Oslo? No, non ad Oslo, a 145 chilometri circa in direzione nord-est, in una cittadina chiamata Elverum. Ecco, e questa cosa ti spaventa, per esempio, l'essere in un paese piccolo e quindi non nella capitale? No, no, no, ma Intercultura lo dice sempre a tutti i suoi partecipanti, non si mandano mai ragazzi in città grosse, perché il fatto di stare in posti piccoli diminuisce il rischio delle grandi città. Adesso non è il caso di Oslo, che è più piccola di Torino, però chi si può trovare per esempio nei dintorni di Johannesburg o di New York, per dire, si trova comunque in dei posti che come città sono molto pericolose, e invece nei villaggi piccoli si può girare tranquillamente e fare la propria vita anche senza avere qualcuno che ti accompagna sempre. Ecco, e che idea ti sei fatta della Norvegia, che avrai studiato immagino prevalentemente su internet? Sì, attraverso i libri di scuola e su internet, ma devo dire che mi è sembrato un paese tranquillo, aperto, molto votato alla natura e all'ambiente, e con delle città molto piccole e la gente che sembra essere chiusa, ma quanto dicono è molto più aperta di quello che appare all'inizio, soprattutto a noi mediterranei. Ecco, tu vorrai fare bella figura appena arrivata, quindi quando incontrerai la famiglia cosa dirai in norvegese? Hi. Jajar Francesca. Punto, poi vai a dormire dopo il viaggio. Allora, Francesca, insomma, in bocca al lupo per la partenza. Partirai fra 3 giorni, poi c'è qualche giorno di ambientamento, perché Intercultura prevede anche dei campi di inserimento, no, tra i vari studenti, però magari ci risentiamo tra un paio di settimane, così ci racconti come è andata, come sono andati i primi giorni a scuola, perché dovrai andare a scuola subito. Sì, io arrivo il 22, incontro i miei genitori adottivi, e il 23 sono a scuola. E lì sarà vera, insomma, sarà la parte più divertente, perché quello sarà il tuo mondo per 11 mesi. Sì, incontrerò, vedrò, adesso non so ancora nemmeno un millesimo di quello che succederà le prossime settimane. E noi insomma saremo con te, perché ce lo racconterai qui a Radio 24, all'Altra Europa. Ciao Francesca, buon viaggio. Grazie, buona giornata. Europost-it. Vivialestero.com è una web community composta da un network di ragazzi italiani che vivono, studiano e lavorano all'estero. Il sito è fatto su misura per quei ragazzi italiani che intendono affacciarsi in Europa tramite lo studio, le vacanze o il lavoro. Vivialestero.com è una community irrinunciabile per muovere i primi passi fuori dall'Italia. L'altra Europa. E l'altra Europa, ci piace anche raccontare storie curiose di italiani all'estero, di italiani in Europa. Beh, la storia di oggi è particolare, perché è la storia di un italiano che vive a Worms, siamo in Germania, ed è assessore, quindi ha fatto anche una sorta di carriera politica. Diamo il benvenuto a Carlo Riva. Ciao Carlo. Ciao Federico, salve. Assessore, come si dice assessore in tedesco, tra l'altro? Qui a Worms lo chiamano Stadtrat. Ecco, non lo saprei pronunciare, quindi mi fido di te. Carlo, come sei arrivato a Worms e come sei arrivato a diventare assessore? Dunque, la storia è cominciata negli anni 60, quando i miei genitori volevano aprire una gelateria qui in Germania, come tanti gli altri della Valle del Cadore, delle parti di Longarone, che erano gelatieri. Sì. Allora siamo arrivati qui in Germania, vicino a Worms, una piccola cittadina che si chiama Lampertheim, che sarebbe vicino a Mannheim, una città molto più grande, e abbiamo deciso di fare questa gelateria, i miei genitori erano gelatieri, e allora siamo arrivati qui in Germania e sono rimasto qui sempre 6 mesi, ho visitato la scuola tedesca e dopo sono andato durante il periodo invernale, siamo andati in Italia e lì ho frequentato le scuole italiane. E dopo sei tornato poi qualche anno dopo in Germania, hai deciso di rimanere lì a vivere? Giusto, infatti i miei genitori se ne sono andati perché dopo tanti anni che sono stati qui a vendere gelato hanno visto una possibilità di aprire un altro negozio a Calalzo, da dove veniamo, e io mi sono deciso di rimanere qui e finire le mie scuole, e così sono rimasto qui e diciamo tanti anni dopo sono stato chiesto dal comune se vorrei diventare praticamente il presidente del consiglio dei stranieri, perché ogni città tedesca ha oltre 2.000 abitanti migrati, devono avere un consiglio per questi migranti, E allora mi hanno chiesto a me e l'ho fatto per 10 anni e dopo alla fine mi hanno chiesto se volevo diventare assessore della città di Worms per il reparto sociale e scolastico e allora ho detto di sì. Tra l'altro la tua storia è un'altra particolarità, perché noi l'abbiamo trovata su un quotidiano locale, e narra delle tue gesta un po' da teppista in gioventù, hai avuto anche una denuncia, quindi un passato un po' movimentato e invece dopo una sorta di conversione. Infatti hai ragione, è stato non solo movimentato ma è stato anche spandato, diciamo, da un lato, perché certamente vedo sempre, ci sono tanti immigrati qui che sono turchi, che sono africani, che sono arrivato a un punto che sono arrivato anch'io, che ero disoccupato, non avevo un lavoro, un mestiere, e mi sono trovato con dei amici che più o meno li chiamavano biker, come per esempio, sì, i Hells Angels, che sono conosciuti, una banda. E questo club si chiamava Ghost Riders e infatti oggi si chiamano Outlaws, sì, che è, diciamo, il nemico numero uno per i Hells Angels. E io così sono cascato dentro, perché ho detto volevo solo andare con la moto, e dopo ho trovato anche dei amici e mi sono messo su questa giacca con questo affare e sono diventato uno di loro. Dopo, in mezzo di questa storia, mi sono trovato che non potevo più uscire perché sapevo troppe storie, troppe robe che erano successo, e alla fine di questo, diciamo, sistema mi hanno eletto presidente anche lì. E allora ero presidente di un grande club, uno dei più grandi qui in Germania, e durante una battaglia che avevamo con un altro club, che sì, c'era una battaglia abbastanza dura, e è successo che quasi l'avevo ucciso, e così i poliziotti mi hanno beccato e mi hanno portato davanti al giudice. E quella però è stata la tua svolta nella vita, nel senso che dopo comunque hai abbandonato quella strada, ti sei davvero convertito, adesso sei diventato un punto di riferimento. Cosa piace di te? Perché hanno scelto te come rappresentante, come assessore? Mi sono preso 9.200 voti come assessore, mi sono chiesto perché. Infatti tanti mi hanno detto: perché tu sei uno che si interessa per la gente, che cerca di trovare la pace tra la gente, e cerca sempre una possibilità di aiutare agli altri, e questo davvero mi ha dato una certa mi è piaciuto, e ho detto va bene, se mi vedete così allora voglio essere il vostro assessore, va bene. Carlo, noi parliamo molto di cultura europea, tu lì sei un italiano che fa l'assessore o ti senti tedesco, ormai sei integrato al 100%? No, a dire la verità, anche sono già 40 anni che abito qui, mi sento sempre ancora italiano, diciamo, tutto quello che è tipico per me è italiano, come mangio, come bevo, come mi comporto, come parlo. Ma certamente mi sono integrato, perché è molto importante a non solo conoscere la cultura, ma anche a diventare una parte di questa cultura che per noi prima di tutto era straniera, e adesso siamo integrati e viviamo più o meno come loro. Carlo, un'ultima domanda, ma nelle vesti di assessore ti sei trovato a dover parlare con quelli che erano teppisti 10-20 anni fa, con quelli con cui magari avevi lottato in strada e adesso avete cambiato i vostri ruoli? Infatti sì, li avevo trovati, perché tanti anni fa è stata pubblicata la mia autobiografia e lì si sono trovati in tante storie, con tante storie non erano d'accordo, per questo mi hanno telefonato, volevano un raduno, ci siamo trovati e abbiamo parlato di tutto, ma c'è un grande rispetto, perché io, come il loro ex presidente, non avevo detto mai di male, parlando mai di male di loro, certamente ho fatto il male come loro, ma ci capiamo bene oggi, ma da una certa distanza anche, cioè non è che siamo sempre vicini insieme. Carlo Riva, da sbandato di quartiere ad assessore in Germania. Questo era il titolo che abbiamo trovato sul Corriere delle Alpi. Grazie davvero per averci raccontato la tua storia e in bocca al lupo per questo ruolo importante che ti compete. Ciao Carlo, buon weekend. Grazie Federico, ciao. Europost-it. Tutti gli anni l'Unione Europea sostiene e finanzia molti progetti ed eventi culturali europei, come ad esempio l'elezione della Capitale Europea della Cultura. Quest'anno l'assegnazione si è conclusa con un ex aequo. Sono congiuntamente Capitali Europee della Cultura Essen in Germania e PEX in Ungheria e Istanbul in Turchia. A Essen, metropoli della Ruhr tedesca, sono vari i progetti che celebrano e celebreranno l'architettura e lo sviluppo urbano, il teatro, la letteratura, la storia e le industrie creative. PEX sarà al centro dell'Europa grazie ai numerosi festival, mostre d'arte e rappresentazioni musicali e cinematografiche, mentre Istanbul ha in programma progetti culturali specifici per la valorizzazione delle tradizioni locali. Dalle sfilate di costumi ai concerti di musica turca Makam, passando per il Festival Internazionale delle Marionette. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.europa.eu. E con l'altra Europa ora facciamo i turisti. C'è un'isola che rappresenta un po' l'estate europea. Questa isola è Ibiza e l'andiamo a scoprire a modo nostro, insieme a un libro, a una guida, a un viaggio a Ibiza, edito da Turing Editore e scritto da un giornalista e critico musicale, oltre che esperto di tendenze giovanili, Pierfrancesco Pacoda, che è qua con noi. Ciao Pierfrancesco. Ciao Federico, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora, nella tua guida mostri un Ibiza, vabbè, in parte quella che si conosce, le belle spiagge, le discoteche, la vita notturna, però poi c'è tutta un'altra Ibiza che vorremmo conoscere con te. Cosa rappresenta oggi quest'isola? Ma guarda, intanto tu hai pienamente ragione, perché l'idea della guida era un po' quella di capovolgere il luogo comune, tra l'altro come buona parte dei luoghi comuni assolutamente vero, e cioè che Ibiza è la capitale non solo europea ma mondiale dell'intrattenimento giovanile. Cioè Ibiza è l'isola dalla quale passano tutti gli stili, le tendenze, le derivazioni varie della moderna cultura della musica elettronica che poi si impongono nel resto del mondo. Quindi da questo punto di vista è interessante, perché è un'isola, l'isola dell'intrattenimento, ed è anche un'isola laboratorio da un punto di vista musicale. Ma c'è un'altra isola, appunto, un'Ibiza nascosta, che è lontana mille miglia dall'Ibiza del piacere, delle discoteche e dell'intrattenimento, che io ho provato appunto a raccontare andando alla scoperta di luoghi, alcuni dei quali nemmeno segnalati sulle mappe turistiche ufficiali. Quindi tu hai vissuto un mese a Ibiza senza mai andare in discoteca? Confessalo. No, questo è assolutamente impossibile, ecco, nonostante l'età, non essendo io più un teenager, ma la cosa divertente delle discoteche di Ibiza è che anche un cinquantenne come me può trovarsi perfettamente a suo agio e trovare dei motivi di divertimento. Non sono posti, come si pensa abitualmente, tarati esclusivamente per gli adolescenti, ma la cosa bella è proprio questo convivere straordinario in Ibiza, no? Di un turismo giovanile che arriva da tutto il mondo, è un placido turismo di famiglie, un turismo molto molto spagnolo, e due mondi che praticamente non si incontrano, oppure se si incontrano si sfiorano, e anche quando si incontrano vige quella etica dell'assoluta tolleranza, della libertà, del piacere di stare insieme, che è forse il retaggio vero che gli anni 60, che Ibiza sono stati davvero un momento magico, hanno lasciato sull'isola. Allora Pierfrancesco, usciamo dalle discoteche e portaci a scoprire questa altra Ibiza. Certo, ho due o tre indicazioni di luoghi nascosti, quelli Ibiza che gli inglesi chiamano undiscovered, dell'Ibiza non scoperta, e alcuni dei quali nemmeno assolutamente non segnalati sulle mappe turistiche. Il primo posto, assolutamente consigliato, è un posto che non esiste. Il posto si chiama Atlantis e sta di fronte all'isoletta di Svedra, diciamo costa sud-occidentale dell'isola. Atlantis è un luogo, una sorta di luogo sacro, una sorta di tempio itti votato agli anni 60, è un posto al quale non si arriva se non dopo una specie di piccolo trekking, e si tratta di una serie di meravigliose piscine naturali scavate nella roccia, e pensate che la roccia, che appunto adesso si presenta sotto forma di cave, appunto di piscine naturali, è quella che poi da lì fu portata nel centro di Ibiza per costruire le mura del centro storico della città. Un posto di suggestione enorme, pochissima gente, ci si arriva soltanto a piedi, nessun servizio nemmeno di traghetto pubblico, anche in agosto sarete praticamente soli a godervi un tramonto meraviglioso. All'altro capo dell'isola, invece estremo nord dell'isola, Benirras, sì. Sì. Una baia piccola, e anche questa fuori dalle rotte turistiche, la domenica pomeriggio questo evento che si chiama The Night of the Drums, ed è anche qui un piccolo paradiso hippie con migliaia di ragazzi che suonano il bongos in attesa del tramonto. Sandy Martin gira ancora per l'isola cantando People from Ibiza? Ma guarda, io non l'ho mai visto, ma credo di sì. Ti racconto però un aneddoto, ma che forse sai o forse qualche ascoltatore saprà, e cioè che quando uscì il famoso pezzo People from Ibiza, l'allora sindaco di Ibiza ne rimase talmente impressionato da dichiararlo ufficialmente inno dell'isola. Fantastico. Cioè, che è una cosa meravigliosa. People from Ibiza diventò l'inno della città di Ibiza. Un grazie a Pier Francesco Pacoda, autore di Un viaggio a Ibiza, edito da Touring Editore. Ciao Pier Francesco, buon weekend, buon Ferragosto. Ciao, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao. Europost-it. Gucca, un paesino di 5.000 anime nella Serbia centrale, a circa 150 km da Belgrado, gode di una straordinaria popolarità nei Balcani. Proprio qui, in un fine settimana di agosto, dal 1961 si svolge il Sabor Trubaca, una competizione per orchestre di ottoni. Competizione che nel tempo si è trasformata in uno dei maggiori festival internazionali di musica zigana, che quest'anno ospiterà anche l'istrionico Goran Bregovic il 18 agosto. La manifestazione si è aperta ieri, 13 agosto, e si concluderà domenica 22. Per informazioni sul Sabor Trubaca Festival di Gucca è a disposizione il sito www.saborgucca.com. E andiamo allora a visitarlo, questo festival di Gucca. Lo facciamo con un giornalista freelance che per il 10° anno va a vedere il festival, perché è un appassionatissimo di queste orchestre di ottoni. Non solo appassionato, è diventato anche un esperto e uno studioso. Diamo il benvenuto ad Alessandro Gori. Ciao Alessandro. Ciao, come state? Noi molto bene, buon sabato. Tu sei in Serbia e stai andando verso Gucca, che è un piccolo paesino, 5.000 abitanti, giusto? Sì, è una cosa abbastanza strana, no? Quando la gente che anche normalmente arriva dall'Italia o dall'estero arriva su queste curve, in queste colline della Serbia centrale, non si aspetta di trovare quello che poi vedrà dopo qualche momento. A parte, può iniziarlo a immaginare magari con le code delle macchine che appunto assalgono queste colline, ma poi si arriva giù e c'è questo paesino che, insomma, io sono del Friuli, un paesino come tanti del Friuli, come il mio, che però viene invaso di solito nei 5 giorni che dura il festival da 3, 4, 500.000 persone. Ecco, uno pensa all'orchestra di ottoni, immediatamente l'immagine va a Bregovic, che sarà ospite anche del festival, ma non c'è solo Bregovic, che mondo c'è lì? Ma c'è un po' di tutto, in realtà Bregovic c'entra molto poco con il festival di Gucca, ti do questa affermazione un po' contraddittoria, o almeno apparentemente contraddittoria, perché in realtà Bregovic si è ispirato, tra molte virgolette, alla musica, a questo tipo di musica che esisteva già, non l'ha inventata lui, e soprattutto diciamo che ha firmato le composizioni che sono state suonate nel film Underground di Kusturica, mm-hmm, risale al 1995, per cui diciamo che da una parte lui ha sfruttato più che altro questo tipo di musica, dall'altra anche grazie a lui dopo Underground in molti angoli nascosti del mondo hanno sentito questa musica appunto portata dalla sua orchestra, insomma. Ma sono tutte orchestre provenienti dalla penisola balcanica? Allora, c'è una cosa strana, no? Nel senso che questa, come sapete, è la 50ª edizione del festival, che è iniziata nel 1961, e l'idea era di far ritrovare le orchestre che facevano questo tipo di musica tradizionale, anche per non perdere un po' la tradizione, per cui alla prima edizione hanno partecipato solo 4 orchestre. Adesso c'è tutto un sistema molto complicato di qualificazioni nelle 4 regioni storiche della tromba in Serbia, per cui solo le migliori 20 orchestre arrivano normalmente a quello che è la finale, e questa è la scusa del festival di Gucca, cioè trovare la competizione per designare qual è la migliore orchestra, qual è la migliore tromba, eccetera eccetera. Quello che capita è però che questa è solo una piccola scusa dell'universo che poi si vede, si sente, si mangia, si beve, eccetera eccetera, a Gucca, per cui tu ti ritrovi in un'atmosfera che sembra quella di un film di Kusturica, ma sei dentro. Però la scusa è quella, per cui da in tutti gli angoli di questo paesino, e non solo nel centro del paese, ci sono orchestre che suonano sotto i tendoni mentre la gente mangia e beve, per strada, eccetera. E poi c'è anche quella piccola parte che non è, che la, forse non è la più importante, che è anche il concorso. La differenza di quest'anno con gli altri anni è che, appunto, essendoci il giubileo cosiddetto, per cui il 50° anno, succede che gli organizzatori del Festival di Guccia, che è il comune di Luceni e la municipalità a cui il paesino appartiene, si sono inventati un programma molto più ampio, per cui non 5 giorni come di solito, che all'inizio erano 3, poi sono diventati 5 10 anni fa, ma 10 giorni, per cui 2 fine settimana, che è una cosa un po'... forse non proprio la cosa migliore che potevano fare. Io sono abbastanza critico in questo senso, per cui quello che di solito è la competizione per le trompe, le orchestre di ottoni serbe, quest'anno è stata ampliata e verrà designata, so to say, per così dire, la migliore orchestra del mondo, per cui ci sono anche delle presenze internazionali, ma secondo me questo è un artificio abbastanza... insomma, un po' tiracchiato, un po' per il business, insomma. Alessandro, tu tra l'altro hai scritto anche un documentario intitolato La Repubblica delle Trombe. Sì, è un documentario che abbiamo autoprodotto, abbiamo realizzato io, che ho scritto, e Stefano Missio, che ne è il regista. Ci sono le informazioni, si possono trovare se digitate su un Google La Repubblica delle Trombe, dovreste trovare subito il nostro sito. Alessandro, un'ultima domanda: tu conosci 7 lingue, sei un freelance, hai scritto per un sacco di testate, hai partecipato anche come osservatore nelle missioni elettorali dell'Unione Europea, nei paesi conflittuali. Ecco, che Europa si vede da lì, da Guccia? Non si vede l'Europa. È un po' la parte inversa, più che vedersi l'Europa, è l'Europa che negli ultimi anni sta divenendo sempre di più in Serbia, e questa è forse una delle poche occasioni per le quali ci sono dei turisti che stanno iniziando a venire sempre più in massa, soprattutto francesi, italiani, spagnoli, ma non solo, per cui ogni anno si vede la presenza molto più nutrita di stranieri, e questo da poco, come forse saprete, dal 19 dicembre, dopo 20 anni quasi, cioè 17 anni, sono stati tolti i visti per i cittadini serbi per venire nello spazio Schengen, per cui fino a pochi mesi fa diciamo che la musica era l'unica cosa, no, che capita spesso, che attraversare le frontiere mentre la gente non poteva attraversarle. Era vero il contrario, nel senso che appunto è possibile venire qua in Serbia per i cittadini dell'Unione Europea. È una cosa interessante che soprattutto Stefano ci teneva a precisare, tiene a precisare quando facciamo gli incontri, nelle proiezioni, nei festival, è appunto la distanza mentale e geografica che esiste. Uno non si rende conto che noi siamo appunto friulani di Udine, e da Udine è più vicino a Belgrado che non Roma, no? Certo. Per cui uno pensa che sia una cosa lontanissima, e invece basta prendere un treno e venire a scoprire quello che c'è di interessante da queste parti. Grazie davvero Alessandro, ricordiamo il sito www.saborguccia.com. Ciao e buon festival. Ciao Alessandro, buon weekend, grazie per essere stato qua con noi all'Altra Europa. Vi ricordo che la puntata può essere riascoltabile in podcast dal nostro sito radio24.it. Un grazie a chi ha dato una mano a realizzare il programma: Luca Cremonese, Anita Panizza, Luca Rinaldi in redazione e Pietro Lacorte in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo con l'Altra Europa e domani alle 17 con Mine Vaganti. Ciao!